La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'autunno del 1992, quando in Italia, con Tangentopoli, si diede avvio alla cosiddetta Seconda Repubblica, in contemporanea con la più grave crisi finanziaria degli ultimi decenni. Ospite ai nostri microfoni Michele Salvati, economista e direttore della rivista Il Mulino. La parola adesso va a Dino Pesole. Viviamo una congiuntura politica di cambiamento, caratterizzata da mutazioni rilevanti in una parte almeno dei soggetti politici tradizionali, dalla nascita e dall'ingresso in Parlamento di nuovi soggetti, dalle innovazioni che investono le forme della politica e i suoi stessi strumenti per esprimere i bisogni collettivi. Siamo tutti consapevoli di non essere in una parentesi e di non poter restare fermi in attesa che passi la ventata. La voce che avete appena ascoltato è quella di Giuliano Amato, presidente del Consiglio, era il 30 giugno del 1992. Crisi politica, crisi economica, due eventi che si ripropongono ciclicamente nel nostro paese. È avvenuto con il cambio della guardia a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti nel novembre dello scorso anno, sotto l'incalzare di una duplice emergenza: la paralisi politica della ex maggioranza, la drammatica crisi finanziaria. Più o meno quel che avvenne 20 anni fa, nell'autunno del 1992, quando il sistema politico franò sotto i colpi di Tangentopoli, dando così avvio alla cosiddetta Seconda Repubblica, proprio in contemporanea con la più grave crisi finanziaria degli ultimi decenni. Bancarotta, crisi finanziaria, insolvenza. È il rischio che abbiamo corso nel 1992, seppur in un contesto europeo e globale non comparabile con l'attuale. L'imperativo categorico era recuperare credibilità sui mercati e alleggerire il peso degli interessi che cresceva a ritmo esponenziale facendo volare il deficit. Una spirale infernale, poiché l'alto debito costringeva il tesoro a offrire rendimenti sui propri titoli che superavano il 12,5%. In questa situazione di grande fragilità partì l'attacco alla lira. L'Europa era in pieno panico dal referendum danese, con il rischio che un no alla ratifica del Trattato di Maastricht innescasse un effetto a valanga sugli altri paesi. Il mercato prese a sparare alla rinfusa e le monete meno forti furono le prime a cadere sotto i colpi della speculazione. La peseta e la lira, prime tra tutte. La situazione economica italiana, osservò Giuliano Amato nel presentare il suo governo alle Camere, è di particolare gravità. Prefigura in termini tendenziali e senza correzioni scenari inquietanti per la finanza pubblica e per le stesse strutture portanti della nostra economia, con particolare riguardo alla solidità della sua base produttiva e alle prospettive dell'occupazione. Dietro l'angolo non c'è l'uscita dall'Europa, il rifugio in una impossibile autarchia. C'è piuttosto il rischio di diventare un'appendice dell'Europa, una Disneyland al suo servizio, arricchita dal nostro clima, dalle nostre bellezze naturali, dalle vestigia della nostra storia e della nostra arte. Eravamo nel mezzo della più grave crisi dopo quella del 1947, all'epoca di Corbino e Einaudi, quando si discuteva se cambiare moneta, l'inflazione era alle stelle, il paese era distrutto. La sera del 13 settembre di 20 anni fa, Amato comunicava agli italiani la svalutazione della lira, che a conti fatti fu tra il 20 e il 25%. Abbiamo in linea il professor Michele Salvati, economista, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Lei nota delle somiglianze tra la grave crisi del 92 e quella attuale? Le somiglianze sono impressionanti e soprattutto rivelano l'esistenza di un problema che non c'è in altri paesi, vediamo così, tra virgolette, normali. Cioè il fatto che la politica dà forfè. Sostanzialmente la gestione politica del passato produce tali difficoltà economiche, incapacità di gestirle, che a questo punto i partiti politici, o su spinta di un rivolgimento popolare, o diciamo hanno il buon senso di accorgersene, come è avvenuto adesso, e si eliminano il problema togliendosi di mezzo, non sono capaci di risolvere le crisi che i loro comportamenti passati hanno indotto. Quindi a suo tempo i comportamenti, diciamo, la creazione del debito, i processi inflazionistici degli anni 70 e 80 e oggi la questione dell'incapacità di crescere, che è il grande problema di questo nostro paese. Sì. E questa è una cosa che non avviene altrove, che la politica rinunci e debba passare, diciamo, la mano alla tecnica, si fa per dire. A questo punto si tirano indietro, mandano avanti un governo tra virgolette tecnico, in realtà con il loro appoggio questo avviene, e questo provvede ai provvedimenti più impopolari che loro non hanno il coraggio di fare. Allora questa è la crisi della politica, in realtà, la crisi della politica all'italiana, sia nella versione prima repubblica sia nella versione seconda repubblica. Questo è il fatto più grave, un qualcosa che c'è da noi e non c'è altrove. Ecco, ma allora, come oggi, fu necessario ricorrere a una manovra correttiva molto consistente, 92.000 miliardi delle vecchie lire, certo. E infatti poi nel 93 il paese andò in recessione, un po' come è avvenuto con la manovra Monti. Certo, ma allora c'era una grande via di uscita, allora stavamo ancora nella lira e c'era la possibilità che la crisi stessa provvide alla salvezza del nostro paese e alla ripresa della domanda e dell'economia, perché la grande svalutazione incentivò una forte ripresa delle esportazioni, naturalmente, perché era conveniente comprare in lire svalutate. Questa grande possibilità d'uscita e quindi ripresa di una bava di domanda effettiva che proveniva dall'estero, questa volta non c'è. Questa volta, in realtà, per ottenere una forte ripresa trainata dalle esportazioni, noi dovremmo in realtà risolvere un problema gravissimo, che è il problema che i nostri costi espressi in euro, e l'euro non si può cambiare, dovrebbero diminuire allo scopo di incentivare la domanda esterna, oppure la qualità dei nostri beni dovrebbe repentinamente aumentare, ciò che non può essere richiesto nel breve periodo. Quindi allora una via di uscita per far crescere la domanda e riattivare l'economia e l'occupazione c'era, oggi non c'è. Infatti, professor Salvati, lo diciamo anche per maggiore semplicità ai nostri ascoltatori, sta parlando di quelle che un tempo si chiamavano le svalutazioni competitive, cioè si svalutava il cambio così che poi cresceva in qualche modo il... Crescevano le esportazioni, perché le merci straniere costavano di più e quindi non le compravamo e quindi riducevamo le importazioni. Le merci italiane all'estero costavano di meno e quindi, diciamo, i paesi esteri le compravano e trascinavano l'intera macchina produttiva italiana, insomma, questo è quello che avveniva. E quindi oggi, professore, in conclusione, poiché non abbiamo più quest'arma e poiché la crisi è europea, come si sta evidenziando, qual è la via di uscita secondo lei? Ma guardi, di vie di uscita ce ne sono due. Un male grande e un male un po' minore, non c'è un bene. Il male un po', cominciamo diciamo dal male un po' minore. Il male un po' minore è il seguente: è una situazione che durerà parecchi anni di relativo ristagno. Adesso quest'anno ci sarà, diciamo, una recessione sull'ordine del 2,5%, l'anno 21 pure, non a questa altezza, ma di nuovo non ci sarà ripresa. Forse nel 2014 inizierà una bava di ripresa. Una breve ripresa, diciamo, alimentata dal fatto che alcune delle misure di aumento della produttività e, che questi governi tecnici stanno prendendo cominceranno a incidere sul tessuto produttivo italiano e quindi, no, la nostra capacità di reggere al confronto e alla competizione internazionale sarà maggiore, però sarà un processo lento. Quindi, per così dire, diciamo, sarà un processo lento che vedrà parecchi anni, non pochi anni. Credo, non soltanto il 2012 e il 2013, ma ci si estenderà più oltre, di scarsa crescita o addirittura di decrescita, e questo significa prepararsi a un periodo di forte disoccupazione, a un periodo in cui il problema centrale sarà della politica economica sarà quello di evitare che la povertà che consegue da tutto questo si scarichi sui più deboli. Quindi tutta la politica economica in realtà di un paese civile dovrebbe essere centrata sulla limitazione degli effetti di questa non crescita sulla povertà. Quindi questa è la prima uscita, quello che ho detto più favorevole. Certo. La seconda via d'uscita, la nostra situazione è ancora precaria, nonostante oggi no, gli spread siano calati notevolmente e quindi questa via d'uscita sembri molto lontana. Non è impossibile che domani un attacco speculativo violento e mirato su di noi e la Spagna abbia i suoi effetti e quindi induca una crisi dell'euro non più risollevabile con questi incontri continui che si svolgono a Bruxelles o in varie sedi e quindi addirittura in un crollo dell'euro, in una rottura di questo sistema, addirittura in un ritorno alle vecchie monete, che ciò che comporterebbe una crisi molto più pesante, ma anche in un certo senso più repentina, nel senso che a questo punto, ritornati alla lira, sarà possibile svalutarla. Svalutare la lira però, teniamo sempre presente, significa un impoverimento mostruoso. Certo. E quindi diciamo questi effetti, mentre gli effetti impoverimento della prima via di uscita, diciamo così, sono lenti e continui e poi sperabilmente se i miglioramenti continuano ne usciremmo, questo sarebbe una cosa secca e brutale. Io penso che sia improbabile e in entrambi i casi il problema è quello di rendere l'economia italiana e direi di più la società italiana più simile alle società di maggior successo, di maggior capacità di gestione dei paesi che oggi stanno meglio, dei paesi nordici. Cioè noi dobbiamo fare quelle riforme profonde, radicali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, che ci rendono in un futuro più efficienti, più produttivi, più competitivi. Grazie. Quindi, a lei anche.